English 24. Buonasera da Marta Cagnola. E da Giulia Crivelli. Qualche notte fa è successo un evento che ha cambiato un po' la storia del mondo, perlomeno ha cambiato la storia del mondo occidentale come lo stavamo vivendo da 10 anni. La cattura e l'uccisione di Osama Bin Laden. Ci siamo svegliati una mattina con questa notizia e soprattutto ascoltando le parole di Barack Obama, perché è stato lui stesso ad annunciare quello che era accaduto in Pakistan. Quindi noi abbiamo recuperato questo intervento di Barack Obama per sentire come lui lo ha annunciato agli americani e al mondo intero. Sentiamone un breve estratto. Shortly after taking office, I directed Leon Panetta, the director of the CIA, to make the killing or capture of Bin Laden the top priority of our war against Al-Qaeda, even as we continued our broader efforts to disrupt, dismantle and defeat his network. Then, last August, after years of painstaking work by our intelligence community, I was briefed on a possible lead to Bin Laden. It was far from certain, and it took many months to run this thread to ground. I met repeatedly with my national security team as we developed more information about the possibility that we had located Bin Laden hiding within a compound deep inside Pakistan. Ecco qui com'è andata, perlomeno nel preambolo che ci racconta Osama Bin Laden, ci racconta un po' quello che ha preceduto questo blitz nel compound. Cosa è successo, cosa racconta Barack Obama? Cioè, lui precisa, torna un po' indietro nel tempo, ricorderete Barack Obama è eletto nel novembre 2008 e poi il discorso di insediamento nel gennaio del 2009, quindi dice lui shortly after taking office, quindi potrebbe essere già in novembre in realtà, o comunque al massimo l'ha fatto nel gennaio del 2009. To take office vuol dire entrare nell'incarico, assumere l'incarico naturalmente di President of the United States e anche Commander in Chief, perché il Presidente degli Stati Uniti è anche il comandante di tutte le forze speciali e non degli Stati Uniti militari, e quindi è uno dei suoi primi step dopo appunto after taking office, è parlare con il direttore della CIA, Director of the CIA, Panetta, e dargli delle indicazioni molto chiare sul nemico numero uno. C'è questa priorità, c'era già da prima questa top priority, proprio la priorità numero uno. Era di killing or capturing Bin Laden, quindi ucciderlo o catturarlo, even as, anche se, we continued our effort to dismantle his network. Parallelamente, naturalmente, perché Bin Laden, questo lo abbiamo sentito ripetere da tantissimi analisti in questi giorni, era sì, sicuramente era allora, nel 2001, anzi lo era anche da prima, forse lo era fino al giorno in cui è stato ucciso, il capo di Al-Qaeda, ma naturalmente Al-Qaeda è appunto un network, his network, la sua rete terroristica che andava dismantled, che andrebbe idealmente completamente distrutta. A un certo punto è arrivata la notizia a Barack Obama di una pista che poteva portare a Osama Bin Laden, ed è successo qualche mese fa in realtà. Sì, lui dice last August, quindi appunto 7-8 mesi fa, e qui ricorderete sicuramente come è stato usato il termine essere briffati dalla Elisabetta Canalis quando criticata perché non era venuta bene la sua intervista a Robert De Niro, aveva detto non eravamo stati correttamente briffati. Ecco, qui invece Barack lo usa, ma naturalmente in modo più proprio, e dice I was briefed on, quindi in inglese si dice to be briefed on, che vuol dire essere informati su qualche cosa, essere più che informati, ancora più informati da qualcuno che ne sa molto più di te. Quindi gli è stato raccontato naturalmente da qualcuno della CIA o dei servizi segreti di questa possible lead to Bin Laden, che appunto la Marta ha tradotto come pista, lead letteralmente un lead che naturalmente viene dal verbo to lead, che è condurre, quindi un qualcosa che conducesse, una pista appunto a Bin Laden. Non era una cosa sicurissima, lui effettivamente dice c'era questa possibilità perché l'avevano in un certo senso stato localizzato, sapevano finalmente dopo anni dove poteva trovarsi Bin Laden. E qui c'è una di quelle espressioni che diciamo sempre fanno la differenza, fanno capire se uno sa veramente bene l'inglese oppure si esprime semplicemente in inglese, questa espressione to run this thread to ground, questa thread nel senso di filo, quindi letteralmente far scorrere questo filo sul pavimento, cioè riuscire a questa lead che era stata data a Osama, in realtà farla diventare una vera e propria pista, quindi svolgere letteralmente questo filo che portasse poi veramente al compound deep inside Pakistan dove era il Osama Bin Laden. Tutto questo in realtà succedeva nell'agosto scorso, dopo anni di lavoro molto approfondito da parte dell'intelligence americana. E poi cosa è successo la scorsa settimana? Beh, lo ha raccontato sempre in questo discorso agli americani. And finally, last week, I determined that we had enough intelligence to take action and authorized an operation to get Osama bin Laden and bring him to justice. Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. A small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage and capability. No Americans were harmed. They took care to avoid civilian casualties. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body. Allora, c'era stata questa pista, la possibilità di farla diventare una pista reale, cioè davvero di andare a trovare dove stava Bin Laden, e però a un certo punto bisognava anche decidere quando agire. Perché naturalmente la certezza matematica i Navy SEALs l'hanno avuta soltanto quando si sono trovati davanti Osama Bin Laden. Fino a quel momento poteva essere comunque, era un'incognita entrare in quel compound. Però Barack Obama dice we had enough intelligence. Qui naturalmente è un po' un false friend intelligence, perché se da una parte è vero che an intelligent person è una persona intelligente, intelligence in questo senso non è avevamo abbastanza intelligenza, ma avevamo abbastanza informazioni, perché l'intelligence service sono i servizi segreti, non sono i servizi di intelligenza. E quindi lui I determined, anche qui non io ho determinato, ma mi sono deciso, quindi ho deciso che era tempo to take action, di appunto muovere verso il compound, o meglio dare l'ordine ai Navy SEALs di entrare nel compound, quindi autorizzare questa operazione, una targeted operation viene definita così in un gergo un po' insomma appunto da militari, da servizio segreto. Quindi lui dice naturalmente è una cosa decisa da me, quindi the United States, io nel senso di the United States, launch, to launch vuol dire lanciare, naturalmente lanciare anche un razzo oppure anche lo shuttle per esempio, e quindi noi abbiamo lanciato questa targeted operation against quel compound che ormai conosciamo tutti di in Pakistan. Prosegue il nostro Barack Obama utilizzando dei termini che in realtà noi abbiamo sentito applicare molto spesso in questi anni, purtroppo parlando di conflitti, parlando di azioni militari, c'è un po' un compendio di tutti i termini che abbiamo appunto purtroppo imparato in questi anni. Sì, tra l'altro notiamo il phrasal verb to carry out the operation. Carry naturalmente vuol dire portare, cash and carry per esempio sono i supermercati dove si paga e si porta via. To carry out vuol dire portare a termine questa operazione. E no Americans were harmed, to be harmed naturalmente con l'H davanti, to be armed vuol dire essere armati, to be harmed vuol dire essere feriti, quindi nessun americano è stato ferito. E poi anche qui un linguaggio se vogliamo un po' burocratico e anche un po' sibillino, perché Barack dice they took care to avoid civilian casualties, hanno cercato di o meglio hanno fatto del loro meglio, si sono impegnati per evitare dei morti tra i civili, che poi naturalmente sappiamo che invece ci sono stati, però lo sforzo era quello idealmente di non uccidere nessuno che non fosse che non fosse stato identificato come appartenente al Qaeda. In un primo momento non si sapeva cos'era successo del cadavere di Osama Bin Laden. Quindi lo scontro a fuoco, letteralmente firefight, che sostanzialmente è la traduzione letterale, perché fire, fuoco, fight, lotta, quindi scontro a fuoco. They killed Osama Bin Laden, took custody of his body. To take custody, take naturalmente è un verbo irregolare, take, took, taken, quindi hanno preso in custodia il corpo di Osama Bin Laden. Adesso ascoltiamo invece come conclude Barack Obama questo discorso alla nazione che lui ha tenuto poche ore dopo l'annuncio della morte di Osama Bin Laden. For over two decades, Bin Laden has been Al-Qaeda's leader and symbol, and has continued to plot attacks against our country and our friends and allies. The death of Bin Laden marks the most significant achievement to date in our nation's effort to defeat Al-Qaeda. Yet his death does not mark the end of our effort. There's no doubt that Al-Qaeda will continue to pursue attacks against us. We must, and we will, remain vigilant at home and abroad. Subito il presidente degli Stati Uniti ha pensato alle conseguenze di questa azione. Ovviamente sono le prime considerazioni che ha fatto nelle prime ore al giungere della notizia. Ecco, cosa ha detto subito agli americani? Tra l'altro a noi serve perché veramente raramente ho trovato un esempio migliore dell'uso del past continuous, perché lui dice for over two decades, quindi ci annuncia che sta per spiegarci che cosa è stato fatto lungo un periodo di due decenni, e perciò non può che usare il past continuous, e infatti dice Bin Laden has been Al-Qaeda's leader and symbol and has continued to plot attacks, quindi per lungo tutto questo periodo di due decadi Bin Laden è stato il leader, ma anche il leader, ma anche il simbolo di Al-Qaeda, e ha continuato to plot, vuol dire complottare, quindi a complottare, preparare degli attacchi against our country, quindi contro di noi, against our friends, contro i nostri amici, and our allies, e i nostri alleati. Qui tra l'altro c'è questa sottigliezza diplomatica, ci sono dei paesi che vengono definiti amici che probabilmente è qualche cosa di più che alleati. E poi aveva già in mente sicuramente il fatto che con la morte di Osama Bin Laden il problema non si conclude, e anzi bisogna restare vigili e forse alzare un po' la guardia. Probabilmente lui, anzi sicuramente lui già ci stava pensando. Qui un altro splendido esempio di quello che diciamo sempre, che quando l'aggettivo è molto lungo non gli si può mettere il suffisso est, ma bisogna mettergli most davanti. Significant è per gli standard inglesi una parola molto lunga, quindi most significant achievement to date, il più significativo traguardo to date a oggi contro Al-Qaeda. E però, appunto, come dicevi tu, yet, però, usato come appunto però, his death does not mark the end of our efforts. To mark something vuol dire segnalare, indicare, mark appunto il marker, no? Lo vediamo spesso sui pennarelli, quello, quindi questo greatest, most significant achievement non è la fine dei nostri sforzi contro Al-Qaeda. Abbiamo ascoltato il discorso di Barack Obama, è stato proprio il primo dopo la cattura di Bin Laden. Si conclude qui il nostro tempo radiofonico per il nostro English 24 di questa sera. Devo ricordarvi l'appuntamento con il nostro English 24 in edicola. Vi devo ricordare di iscrivervi alla nostra pagina di Facebook. Devo anche ringraziare Mauro De Angeli in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'augurio di una buona serata.